edizione. Copertina di prima edizione, questa mattina la dedichiamo allo zapping TV, è qualche mattina che non lo facciamo e allora ecco Maurizio Crozza ieri sera durante la puntata di Fratelli d'Italia di Italialand. L'incasso tra l'altro della serata è stato devoluto alle vittime del terremoto in Emilia, così Maurizio Crozza. Un incubo oggi, ho avuto un incubo, la gaffe di Alfano ormai in realtà, è realtà, ora al colle sta. Seduto là, col suo tupè presidenzialista alla France. Edizione. Ancora 29 scosse nella notte in Emilia, ve l'abbiamo già detto, ve la racconteremo ancora più avanti come è andata per i molti sfollati, sono ormai 15.000 questa notte che si va concludendo, ormai siamo alle prime luci del sole. Nel frattempo le prime pagine dei quotidiani naturalmente ancora a questo dedicano questa mattina le aperture. Veloce carrellata, inchiesta sulla strage degli operai, il titolo che sceglie La Repubblica. Sisma in Emilia, benzina più cara, così Il Messaggero. Il Sole 24 Ore, i danni del terremoto salgono a 5 miliardi, La Stampa, l'Emilia prova a rialzarsi, Il Corriere della Sera, non vogliamo lasciare le nostre case. Temi diversi, aspetti diversi di un unico grande evento sta colpendo l'Emilia. Allora, La Repubblica, dicevamo, l'attenzione la posta soprattutto sulla cosiddetta ormai strage degli operai, aiuti ai terremotati, aumenta la benzina, rinviate le tasse, le imprese che dicono siamo in ginocchio, il sisma ha distrutto il motore produttivo del paese. E torna quindi l'ipotesi di un ritocco dell'IVA, così La Repubblica. Su questo punta direttamente, dicevamo, Il Messaggero, benzina più cara, varate le misure, sospese tasse e contributi, e poi Napolitano che dice il 2 giugno sobrio ma ci sarà, e questa è un'altra polemica che va avanti. Il Sole 24 Ore, 17 le vittime del sisma. Il presidente di Confindustria Squinzi dice polemiche artificiose sui capannoni, ma i danni del terremoto, sentivamo, salgono a 5 miliardi. Con la benzina più cara di 2 centesimi per riuscire a trovare i fondi per aiutare le popolazioni dell'Emilia. E allora ecco l'editoriale in prima pagina del Sole 24 Ore, La fantasia di Alice. Affidarsi alla buona volontà delle compagnie petrolifere per evitare che l'aumento di 2 centesimi delle accise sulla benzina si trasmetta ai consumatori è degno della fantasia di Lewis Carroll. La sua Alice non sarebbe arrivata a tanto, poco male si direbbe, se non fosse che saranno i cittadini a farsi carico di tante ingenuità. Ancor peggio se il ricorso alle risorse potenziali della spending review dovesse rendere inevitabile anche l'aumento dell'IVA. Certo, l'emergenza è emergenza, leggiamo ancora dal Sole 24 Ore, e l'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto non ammette timidezze, ma da un governo di esperti ti aspetti soluzioni meno scontate e magari una rapida consultazione in sede europea per escludere dal calcolo del deficit le spese per la ricostruzione. Durissimo, questa mattina il Sole 24 Ore. Come altrettanto dura è La Stampa, l'Emilia prova a rialzarsi, il titolo in prima pagina, le imprese non devono crollare, il titolo del commento di Mario De Aglio. E ancora sul Corriere della Sera, non vogliamo lasciare le nostre case, il lato umano del terremoto, ad aprire il Corriere della Sera, protezione civile, l'esame inizia ora, scrive però Sergio Rizzo. Sentite un po', era furibondo Franco Gabrielli quando scrisse a Berlusconi, Gianni Letta e Tremonti che il decreto mille proroghe avrebbe ucciso la protezione civile, ma nessuno gli diede retta. ora inizia l'esame, dice Sergio Rizzo. E ancora Gian Antonio Stella, cose da fare, errori da evitare. Ogni dissenso si capisce è legittimo, ma l'esaltazione online di Arnaldo Forlani, benedetto per aver lui sì sospeso le celebrazioni dopo il terremoto in Friuli, parliamo in questo caso di 2 giugno, è così pelosa e strumentale da gettare un'ombra perfino sulle migliori buone intenzioni. E rischia di fare chiasso mettendo in secondo piano il tema vero. Non ne possiamo più di piangere lutti causati da fatalità talvolta imprevenibili, non sempre, talvolta, ma cui danni vengono moltiplicati da un vuoto inaccettabile nella cultura della prevenzione. Che dei ladri possano rubare un chilometro di fili di rame isolando l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed è successo, è successo nei giorni della crisi sismica in Emilia, manda il sangue alla testa, ma lì siamo nell'ambito della criminalità più stolta. Molto più gravi sono le responsabilità di chi negli anni si è opposto a ogni irrigidimento sulla sicurezza. Così Gian Antonio Stella. Questo l'argomento che apre le prime pagine dei quotidiani, ne parleremo, come abbiamo detto anche noi, più avanti, ancora a prima edizione. C'è un altro argomento che fa molto discutere ed è quello del calcio. Ricordate, Monti ha chiesto di sospendere per 2-3 anni il campionato dopo il calcio scommesse. La Gazzetta dello Sport questa mattina in prima pagina c'è Gigi Buffon, che ieri, l'avete sentito poco fa da Carlo Genta, si è lamentato. Sparata Buffon, il PM respinge, questo è il titolo della Gazzetta. La fuga di notizie è vergognoso, questo è il punto più basso, la classifica delle vergogne, il commento questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Gigi Buffon ha usato la parola vergogna per la fuga di notizie. Noi forse ingenuamente pensavamo che quel termine potesse essere meglio impiegato per i giocatori che vendono e comprano le partite, per i dirigenti che fanno lo stesso o sono ciechi, per i tifosi delinquenti che minacciano, picchiano e inquinano. Così. Poi al quinto senso posto della classifica della vergogna si possono anche inserire alcuni storici peccatucci di certi magistrati, che però non si inventano le schifezze che sta producendo il mondo del calcio. Così il commento questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Le 6:24 minuti, c'è ancora tempo per qualche altra segnalazione. Allora, sulle prime pagine dei giornali, grande spazio al terremoto, c'è qualche altra notizia? C'è, e allora il Corriere della Sera, ad esempio, a centro pagina, ve l'abbiamo raccontata anche in GR24, mette il vertice notturno telefonico tra Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Obama vertice sulla crisi con Monti, Merkel e Hollande, giù le borse europee però, scrive ancora La Stampa. Poi Stati Uniti, Unione Europea, vertice sulla Spagna. A centro pagina del Messaggero un'altra notizia che vi abbiamo dato anche noi: Unipol, BNL, assolti, Fazio e Caltagirone, la sentenza d'appello a Milano, il fatto non sussiste. Ancora sulla Repubblica, la tristezza del Papa sulla mia chiesa e le azioni gratuite, il cosiddetto Vaticalix, ancora, che trova spazio sulla prima pagina della Repubblica. Qualche curiosità sempre dalla Repubblica, allora ve la segnalo. Il mondo cambia misura, diventa XXL per gli obesi. Se gli uomini non riescono a dimagrire, sarà il mondo ad allargarsi per loro, scrive oggi la Repubblica. Sedili di autobus, aerei e stadi, sedie a rotelle e letti d'ospedale, perfino le porte degli scuolabus, tutto diventa più largo e robusto per inseguire un rigonfiamento che nessuno riesce a frenare. Così sulla Repubblica, lettura curiosa, vi lascio allora alle prime pagine dei giornali che troverete in edicola. Perché noi vogliamo parlare anche d'altro, come sempre la mattina prima edizione, oltre che dei temi più di stringente attualità. E allora parliamo ancora di salute, come fa la Repubblica, ma da un altro punto di vista, perché forse non sapete che oggi, 31 maggio, è la giornata mondiale senza tabacco. Tabacco, sì, parliamo ancora di sigarette, perché ce ne siamo forse un po' dimenticati, ma il tabacco uccide ancora oltre 6 milioni di persone nel mondo ogni anno, 83.000 all'anno in Italia che muoiono per il tabacco. Oggi, dicevamo, è la giornata mondiale senza tabacco. Allora io saluto il presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il professor Francesco Schittulli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ormai lo sappiamo tutti che il fumo fa male, eppure si fuma ancora. Perché? Cos'è che non ha funzionato? Chi resta ancora accanito fumatore? Diciamo che dobbiamo cercare di tenere alta l'attenzione nei confronti del big killer numero uno per quanto riguarda il sesso maschile, e per il genere femminile tende a salire. E questo è un fatto che le istituzioni evidentemente hanno abbassato un po' il livello di attenzione nei confronti di questa cattiva abitudine. E poi dobbiamo cercare anche di coinvolgere in maniera attiva e diretta il mondo scolastico, perché dobbiamo evitare l'iniziazione del fumo di sigaretta, soprattutto per quanto riguarda le donne, perché registriamo un incremento per le ragazze rispetto agli uomini. Dopo la campagna contro il fumo nei luoghi chiusi, diceva si è abbassata un po' la guardia, eppure questa resta la prima causa di morte cosiddetta evitabile nel mondo, nel senso che sappiamo a cosa andiamo incontro, non ci pensiamo, lo facciamo lo stesso. Sì, questo è vero, inspiegabilmente dico questo, perché il fumo di sigaretta non comporta soltanto dei danni alla nostra salute a livello dell'apparato cardiaco, dell'apparato circolatorio, dell'apparato respiratorio, ma anche l'insorgenza di tumori di una certa severità. E per quanto riguarda le donne anche va a deturpare anche la propria estetica, perché è un elemento negativo per la cosmesi. Penso per esempio alla ruvidità della pelle, al colorito, della pelle, insomma, alla litosi stessa che può provocare. Cioè, sembra quasi un paradosso che la donna, che giustamente tiene al proprio corpo, alla propria bellezza estetica, poi lo deturpi, lo metta in sotto schiaffo attraverso questa cattiva abitudine. La giornata mondiale contro il tabacco, abbiamo voluto ricordare anche questo. Grazie al professor Francesco Schittulli per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Tra poco riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. Continua la sua crociata contro la parata del 2 giugno, chiedendo di annullarla per destinare i finanziamenti ai terremotati dell'Emilia. E allora noi vogliamo raccontarvi perché si celebra il 2 giugno. Italia in controluce. Benvenuti e bentrovati nella nuova giornata, nuova puntata di Italia in controluce con Daniele Biacchessi. Sabato è il 2 giugno ed è la festa della Repubblica. Sul significato, sui valori espressi da questa ricorrenza, sentiamo il reportage di Anna Marino, sentirete le voci di Carlo Smoraglia e di Don Luigi Ciotti. La Costituzione e la legalità resistono e diventano sempre più forti nelle coscienze delle persone, soprattutto in un tempo in cui le parole, gli scritti e la comunicazione sembrano invece destinate a contrarsi nelle modalità sintetiche e senza luogo e spazio dei social network e dei 140 caratteri di Twitter. Ora, come una volta, ricordare è importante. La festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno, a ricordo della nascita della Repubblica. Il 2 e 3 giugno si tenne infatti il referendum istituzionale del 1946, indetto a suffragio universale, con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al paese in seguito alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502, l'Italia diventava repubblica e i monarchi di Casa Savoia venivano esiliati. Così ricorda quei tempi Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani. Questa Costituzione ha una nascita che è un evento secondo me straordinario, perché siamo appena alla fine di una guerra. Dopo 20 anni di dittatura c'è stata la resistenza, ci sono uomini che hanno anche contrapposizioni politiche, devono unirsi insieme e cercare di fare una carta costituzionale, non per risolvere l'immediato, ma che abbia, e su questo sono tutti concordi, un carattere duraturo, sia destinata a durare nel tempo, a essere la regola di vita di un paese che si affaccia ora alla democrazia, a quel momento, ma che deve diventare e deve restare un paese democratico. È un'impresa difficile, perché ci sono residui di antiche opposizioni, perché ci sono posizioni diverse che si sono mantenute anche durante la resistenza, che ha unificato tutto nell'obiettivo finale della liberazione e del creare poi dopo uno Stato democratico. Tra i valori condivisi di oggi che danno corpo ai principi della Carta ci sono libertà e responsabilità, uguaglianza e legalità. Non solo parole, ma valori che conosce bene Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, attivo nella lotta alla mafia e fondatore e ispiratore del gruppo Abele. La Costituzione arriva da una conquista di democrazia nel nostro paese e la spina dorsale della Costituzione è proprio la responsabilità. Nella Costituzione noi non dimentichiamo mai, troviamo le regole dell'essere cittadino, io credo che oggi più che mai dobbiamo farla diventare sempre più cultura e costume. Era Italia in controluce, torniamo quest'oggi alle 13.30 con nuove storie, nuovi reportage naturalmente su Radio 24. Daniele Biacchessi, 6:38 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di Prima Edizione che già vi abbiamo anticipato, dedichiamo questa mattina a chi questa notte l'ha trascorsa nei campi, nelle tendopoli per il terremoto in Emilia. 15.000 gli sfollati dopo l'ultima scossa, 5 nuovi campi da costruire, fino all'Emilia Mirandola Cavezzi, c'è chi questa notte l'ha passata non nel letto di casa propria. Allora io saluto Cesare Lavizzari, vicepresidente Associazione Nazionale Alpini, buongiorno. Buongiorno a voi. Gli alpini sono stati, come molte volte è accaduto, tra i primi ad arrivare, sono impegnati un po' in tutti i paesi dell'emergenza. Come sono andate le ultime ore? Sono ore di attività molto intensa per la preparazione e la gestione dei campi. Gli alpini sono presenti sostanzialmente in tutti i 9 campi e per 3 o 4 di questi ne hanno la gestione in completa autonomia. Ecco. Quindi, sono molte le persone a vostro carico di cui vi state occupando. Di cosa c'è bisogno in queste ore? La paura naturalmente è quella delle scosse, ma di cosa c'è bisogno? Guardi, c'è bisogno di disciplina. Sembra una cosa singolare, ma la difficoltà più grossa che abbiamo noi è quella di convincere i nostri volontari che non si può scendere tutti assieme. Sono troppi, vogliono in troppi dare una mano. Esatto, noi abbiamo un'organizzazione di protezione civile che si basa su 14.000 volontari. La nostra difficoltà è quella di spiegare loro che l'intervento deve essere intelligente ed efficace e quindi non si può scendere come degli unni, bisogna andare giù ordinatamente secondo le disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile. Noi oggi abbiamo giù operativi più di 350 persone. E sono parecchie. Ascolti, ci sono molte polemiche in questi giorni sulla nuova Protezione Civile, Gabrielli che disse attenzione qui si rovina tutto. È cambiato qualcosa nell'operatività? Guardi, rispetto all'Abruzzo, nell'emergenza, nell'immediatezza direi, almeno per noi direi di no. Noi siamo stati allertati immediatamente, lei può immaginare, noi abbiamo squadre dappertutto, quindi in Emilia Romagna avevamo già squadre presenti che hanno cominciato ad operare nell'immediatezza. Sulla protezione civile, che io mi permetto solo di dire, guardate che è un'eccellenza mondiale e quindi va preservata e probabilmente l'idea di Bertolaso era quella giusta. Va preservata perché adesso secondo lei è a rischio? Beh, ora che non si parla più di una cosa teorica ma di un'emergenza in atto? Ma dunque, è a rischio nel momento in cui non ha fondi a disposizione immediati, ecco. Diciamo che per l'Abruzzo il Dipartimento ha avuto fin dall'inizio mano libera assoluta. Adesso noi le questioni politiche le conosciamo poco, per l'amor di Dio, a noi piace operare, però ripeto, è un'assoluta eccellenza italiana che va preservata e della quale dovremmo tutti andare molto fieri. Allora io le faccio sentire alcune storie che ha raccolto la nostra Raffaella Calandra in uno dei vostri campi a Mirandola. Resti con noi. paura sì. ci sta e continua a starci, cioè io la notte non è che riesco a dormire più di tanto, cioè comunque sai quelle scosse che ti fanno proprio paura, non riesci neanche a entrare in casa, cioè comunque... Anche adesso c'è stata un'altra. Sì, anche adesso, però stai sempre con quella paura addosso, guarda. Com'è andata qui al campo? A campo comunque c'è stato le scossine, un po' di più, un po' di meno, cioè le vibrazioni ci sono, però stai sempre con quella paura se mai arriva quel colpo. Quanti siete nella tenda? 4. Adesso di che cosa si ha bisogno soprattutto qui in questo campo? Un po' di tutto ci vuole. Questo caldo è terribile, sì, nelle tende. Troppo, troppo, troppo, troppo, che non si può neanche stare, più che altro la notte si sta bene, perché apriamo davanti e dietro, almeno si respira, però durante il giorno troppo caldo e si muore, più che altro si muore. In tenda proprio la notte si può stare fuori, almeno con le sedie, 5 minuti un po' si può stare. Avete acqua, Sì, sì, abbiamo tutto, grazie a Dio, meno male, abbiamo tutto. A casa non si può andare perché c'è il terrore di avere qualche scossa e subito, già quando sentiamo un rumore già ce ne scappiamo. Voi avete passato la notte nel campo? Sì. Com'è andata? Ieri sono stato a lavorare, una cosa malissima. Si vive sempre con la paura. Nel campo? Sì, nel campo. Eravate, quanti eravate in tenda? Siamo in dieci. Cercavate, avete cercato di darvi un po' compagnia e solidarietà? Sì, ma lo stesso i bimbi si tremano, sai, però vigili, tutti quelli che fanno sempre con il calmare le cose, sai, che non succede niente. Facciamo tutto, lì stiamo tranquilli, solo nel paura che per non succedere qualcosa. Lavizzari, voi alpini ne avete viste tante di emergenze, com'è questa popolazione emiliana, come sta reagendo? Ma, direi che sta reagendo abbastanza bene, come ha reagito bene la popolazione abruzzese. Tra l'altro noi abbiamo sentito adesso il campo di Mirandola, il campo di Mirandola è gestito dalla colonna mobile del Friuli, e così come quello di Cavezzo per esempio da quella degli abruzzesi, quindi da gente che a sua volta è stata vittima di terremoti importanti. Insomma c'è questo giro di solidarietà tra gli italiani? Assolutamente sì, gli italiani quando c'è bisogno, quando si fidano, sono disposti non solo a lavorare ma anche a mettere mano al portafoglio. Noi l'abbiamo visto pochi giorni fa con la casa per Luca Barisonzi, l'abbiamo visto con l'Abruzzo, in Abruzzo noi siamo riusciti a raccogliere oltre 3 milioni e mezzo di euro per fare poi un intervento di 33 case e una chiesa, insomma gli italiani, e che se ne dica, sono un grande popolo, certo non bisogna fidarsi e per fortuna gli alpini ci si può ancora fidare. E come ci diceva, fa davvero specie il fatto che proprio i friulani e gli abruzzesi siano in prima linea ad aiutare gli emiliani. Ma più che specie credo che sia assolutamente normale, cioè la gente che ha subito sulla sua pelle, che sa bene che cosa voglia dire avere perso tutto e soprattutto avere perso la fiducia, perché guardate che la casa è l'ambiente dove davvero l'uomo ricerca la sua tranquillità, le sue radici. Esatto, aver paura di entrare in casa è la cosa peggiore che c'è. Grazie Cesare Lavizzari, vicepresidente Associazione Nazionale Alpini, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Il traffico, poi andremo ancora però in Emilia, andremo ancora nel campo di Mirandola. Prima edizione. E allora che succede, come si sta svegliando il campo degli sfollati, quello di Mirandola? Il responsabile del campo di Mirandola è con noi, Giorgio Visintini, buongiorno. Buongiorno a voi. Sta spuntando il sole, nelle tende immagino che si veda anche molto presto, che succede lì da voi, come funzionano queste ore? Ma è ancora abbastanza calmo, nonostante ci sia ormai la luce fuori, nelle tende chiaramente la luce si veda subito. La notte è passata tranquilla, non ci sono stati grossi problemi, ieri è stata un'altra giornata tranquilla rispetto a quella di martedì, dove si era un pochino creato così di nuovo queste situazioni di panico. La gente sta ancora dormendo, qua abbiamo tantissimi bambini, per cui quello è un altro sintomo che le tende, il campo è ancora abbastanza assopito nella sua vita normale. Ascolti, si crea una sorta di comunità in questi campi o ciascuno cerca di stare per conto proprio sperando di andarsene presto? No, fondamentalmente le tende sono vicine, quindi gioco forza, ci si deve un attimino rapportare anche con chi c'è a fianco, con chi c'è di fronte. In questo campo poi